gioia, Cleonella qui sola. Oh, quel diletto, prova leva il rancor questi bei fiori, per renderli al mio petto mezzo setto monilli grati onori. Oh, che ti inganni, questi con il vanto spigar solo fra le ma nel tuo bianco seno, per l'onore di onor di quelli io sono. Solite tue lusiche, ti adunano il mio amor, e ottavo, e basti che il cor sempre di te sarà sol pago.